sempre avuto un quoziente di intelligente leggermente superiore alla media. Diciamo ora, così. La cagarella degli esami. Eccola là. Che, ma tu chiedi a me i due movimenti. Ma se te lo dico, chiedi a me che so. Intanto la promuovo e lei ufficialmente fa parte del corso di laurea in medicina e chirurgia perché fa tutto su Replus. Me la laurea qua sul campo? Un bel prende lode se lo merita. Quindi io in questo momento sono un pochino più intelligente di Deborah Rosciani e con questa così. E con questa. Se qualcuno chiede a me cosa mai è l'R3. Qua ti volevo, cara mia, però ti posso qua dire che cade l'asino. No, non sei un asinello, dai. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Massimo, tu te lo ricordi il tuo primissimo giorno di scuola? Caspita, me lo ricordo benissimo, sì. Era qualche annetto fa, diciamo. Però è stato molto, molto emozionante, era un passaggio, però devo dire non così traumatico, perché avendo fatto l'asilo comunque per qualche anno, però è stata sempre questa fase un po' di passaggio, ecco. Quindi all'epoca si metteva il grembiule, esatto. La cartella, pensa che avevamo ancora i banchi col calamaio. Io mi ricordo che andavo a piedi da casa alla scuola ed ero sempre la più alta di tutti, questo è il mio ricordo proprio inciso come sulla pietra praticamente nella mia testa. Beata te, bisognerebbe dire, perché io ho sempre avuto l'ambizione, insomma, di essere un super giocatore, insomma, di basket, però l'altezza non mi ha agevolato. Buongiorno a Massimo Esposti, firma del Sole 24 Ore, collega, è stato responsabile di tutti praticamente gli inserti del Sole, di tutte le principali approfondimenti del quotidiano. Oggi ha la responsabilità di un importante progetto educativo che il Sole 24 Ore cura e segue insieme ad altre due importanti testate nazionali, il Quotidiano in Classe. Poi racconteremo, Massimo, tutti i dettagli, ma soprattutto do il buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi a Cuore Denari, come avrete capito, parliamo di scuola. Non della riforma della scuola, quella la lasciamo ad altri commentatori, la lasciamo alla politica, a tutte le novità che arriveranno e che peraltro per il momento sono un pur parlé, come si dice, no? Perché il ministro Giannini ha fatto solo questo annuncio, ma dovrebbe essere formalizzato con un consiglio dei ministri di venerdì. Non è da questo che oggi partiamo. Diamo la priorità all'impatto che l'inizio della scuola ha sul cuore e sui denari delle famiglie italiane. In piena epoca di spending review, le famiglie cercano di fare un punto sul budget disponibile per la spesa dei libri e per tutto il corredo scolastico, e se la prima voce è difficilmente comprimibile perché i libri li dobbiamo comprare tutti, per la seconda qualche cosina si può fare, magari non comprare la solita raccomandazione, il corredo scolastico ultra firmato e griffato, però poi lì dobbiamo un po' combattere con i nostri bambini che invece vogliono andare a scuola, giustamente dico io, alla moda. Ma insomma, parleremo nella prima parte della trasmissione di tutto questo. 800 24 00 24, voi diteci se avete già iniziato a muovere, quanto tempo fa avete iniziato a farlo, quanto pensato di spendere e se siete disposti a spendere per libri e corredo scolastico in maniera, non lo so, forse al di fuori del budget previsto. State trovando anche qualche sorpresa a questo proposito. Tra l'altro, forse il lunedì prossimo il Sole 24 Ore pubblica non tanto un approfondimento nella guida per la famiglia, appunto, sul tema della scuola, quanto un po' l'editoria digitale. Sì, infatti tutti gli strumenti, chiamiamo elettronici, che ci permettono appunto di fare a meno dei libri di carta e delle pubblicazioni di carta, o comunque sono un'ottima integrazione proprio per poter sfruttare dai tablet allo stesso telefonino, insomma un po' di avere sempre sotto mano la propria biblioteca personale. Esattamente, ne parleremo nel corso del programma. Anticipo già ai nostri ascoltatori, per cui se vogliono possono prenotarsi anche su questo argomento, che nella seconda parte del programma ci concentreremo sulla salute e sul benessere di studenti grandi e piccoli, che con la ripresa del ritmo ritmi tradizionali devono anche fare la giusta attenzione alla loro alimentazione. Ne parleremo dopo il GR delle 12 con il nostro dottor Massimo Gualerzi, ma potete già iniziare a prenotare i vostri interventi e le vostre domande anche su questo tema all'800 24 00 24. La campanella è pronta per milioni di studenti, definitivamente sfumata la proposta portata avanti da alcuni sindaci. Sì, abbiamo avuto anche questo dibattito in questa deludente estate 2014 dal punto di vista meteorologico, in cui si è parlato appunto nelle scorse settimane di prolungare l'estate ancora per un po' per dare una mano al settore turistico pesantemente colpito dal maltempo. L'idea, Massimo, sarebbe piaciuta agli studenti. Assolutamente sì, c'è ancora qualcuno, qualche genitore che ricorda, ai miei tempi si cominciava addirittura il 4 ottobre. Anche il 4 grazie a delle combinazioni strane di festività, ecco. Invece per qualche famiglia in realtà sarebbe anche un po' un problema la mancanza, diciamo, della scuola a partire dall'inizio di settembre. È un po' cambiata l'organizzazione sociale anche delle famiglie, quindi è un tema molto delicato, ecco, su cui intervenire bisogna avere un po' di strategia. Per quest'anno è stata solo una notizia estiva, vedremo nei prossimi anni se si concretizzerà qualcosa. Intanto tutti saranno sui banchi tra i primi di settembre e non oltre il 17 settembre, come ormai avviene da diverso tempo. Sono le regioni che per legge determinano l'inizio ufficiale dell'anno scolastico, ma a loro volta le scuole, secondo il principio dell'autonomia scolastica, decideranno il giorno esatto in cui alunni e professori devono lasciare mare e relax per tornare ad immergersi in libri e registri. Seguendo il calendario ufficiale diramato da ciascuna regione, l'anno scolastico quest'anno prende il via in Alto Adige l'8 settembre, il 10 sarà la volta dei vicini del Trentino, ma anche del Molise, prima regione del Sud Italia. Giorni 11 settembre, campanella per studenti in Valle d'Aosta e Abruzzo, 15 settembre il via dell'anno scolastico in altre 14 regioni. Ma prima di iniziare bisogna equipaggiarsi a partire dall'acquisto dei libri. Allora buongiorno ai nostri tanti ospiti di questa mattina. Daniele Grassucci, responsabile relazioni esterne di scuola.net, scuola con la K, lo ricordo sempre per chi volesse andare a cercare il sito internet di questa vostra organizzazione. Daniele, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovati a tutti anche gli ascoltatori. Anche la presenza di Daniele Grassucci ormai è un grande classico del nostro programma. Saluto e ringrazio Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. E tra poco avremo con noi Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Italiana Presidi. Trefiletti, io comincio con lei perché a fare i conti in tasca agli studenti e alle famiglie voi ci avete già pensato quest'anno con il vostro Osservatorio Nazionale. Allora, quali sono questi conti? Quanto spenderanno quest'anno le famiglie per il rientro a scuola? Sì, guardi, prima mi faccio fare una battuta di qualche secondo sulla questione della scuola e del turismo. Ecco, io sono sempre stato perché tutto il resto deve essere subalterno alla scuola. Non può essere il calendario scolastico modificato a causa di. Tutto, ripeto, deve essere subordinato al calendari scolastici, anche perché, parliamoci francamente, le ferie vengono programmate, gli italiani già lo fanno in pochi perché pochi vanno in ferie, però le ferie sono programmate, non ci sarebbe stato neanche, diciamo così, un aiuto al turismo in generale proprio per via della programmazione. Ma detto ciò, mi verrebbe da dire che comunque questa proposta di allungare le vacanze è stata fatta da un'altra associazione dei consumatori, come lei ben sa, per cui è stata fatta dagli stabilimenti balneari, poi qualche associazione ha detto cavalcato, che va bene, per me francamente uno che quest'anno comunque non se ne fa nulla, per cui Trefiletti andiamo invece a quello che si deve polemica, fare però io spese. ci tengo a dire che per quanto riguarda la scuola tutto deve essere subalterno alla scuola e non la scuola subalterno ad altri problemi dell'economia e via dicendo. Questo io ci tengo a precisare. Benissimo. Parliamo andiamo poi ai costi. Osservatorio che noi ogni anno appunto facciamo, abbiamo tutti le nostre analisi e ci mettiamo anche parecchio tempo, costa fatica, lavoro e via dicendo. Quindi anche qui diciamo che le cose vanno fatte con grande approfondimento, non si possono fare solo delle battute sugli aumenti o che altro, bisogna studiare, lavorare per dare delle risposte serie e statisticamente fondate all'opinione pubblica. Allora magari ci racconta anche Trefiletti, voi come lo elaborate questo vostro osservatorio? Andate nei supermercati, andate nei negozi, nei centri commerciali? In due modi. Allora, per quanto riguarda il corredo, in due modi. Primo, lo fa facciamo andando, noi abbiamo la fortuna, qualcuno può anche pensare che sia una sfortuna, ma noi abbiamo la fortuna di essere dispiegati sul territorio, abbiamo più di 1000 sedi, non siamo 4 uffici legali, noi abbiamo la presenza sul territorio e quindi noi andiamo, giustamente come ha detto lei, andiamo nei supermercati, nelle cartolerie e vediamo lì i prezzi, ma poi sappiamo anche che su internet e in rete i prezzi si trovano e quindi c'è la convergenza tra la ricerca fatta in rete, su internet, e anche la ricerca fatta, diciamo così, visivamente, con gli occhi, con il taccuino, la penna, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo fatto questa ricerca, ogni anno la facciamo, abbiamo tutti gli schemi, dall'astuccio al quadernone e via dicendo. E lo stesso facciamo per i libri. Ora, detto ciò, non è tanto il problema degli aumenti, quest'anno, a differenza degli altri anni, non è tanto il problema degli aumenti, il problema degli aumenti certo è un problema perché le famiglie italiane non vorrebbero aumenti, soprattutto in una fase di crisi, ma anche qui abbiamo quest'anno registrato aumenti abbastanza contenuti, anche se, lo ripeto, non li volevamo e non li vogliamo, attorno a un 1,5%. Il problema vero è l'impatto, il conto economico complessivo che impatta sulle famiglie in una situazione, come lei ben sa, come voi ben sapete, che le famiglie italiane non è che godano di particolare salute relativamente al potere d'acquisto. Ecco, l'impatto che noi vorremmo lo vorremmo che andasse in diminuzione, cioè ci fosse la possibilità di risparmiare e di risparmiare notevolmente su un costo che sta diventando improponibile. Insomma, la somma dei due, del corredo e dei libri, può comportare spese che vanno da 1000 a 1300 euro. Ora, è vero che questa è la media che noi abbiamo fatto. Però 1300 euro sono due rate di mutuo, insomma, se dobbiamo fare qualche paragone, e questo tra l'altro va anche ricordato in un contesto in cui sono stati congelati i tetti di spesa appunto ministeriali, sì, o in qualche caso addirittura tagliati, perché molte scuole stanno tentando di fare questo passaggio difficoltoso al digitale con grandi contestazioni, eccetera. E però, insomma, il costo, come dite voi, della dotazione libraria continua, nonostante questa, ad aumentare. Adesso io tra l'altro so già che scateneremo le polemiche da parte dell'Associazione degli Editori appunto dell'ambito scolastico, che non abbiamo invitato questa mattina perché avevamo un super affollamento di ospiti. Detto questo, però, questo è un dato di fatto, tre filetti, che è incontestabile. Gli aumenti ci sono. Certamente, gli aumenti ci sono, noi li abbiamo denunciati appunto con questo nostro studio approfondimento, però ripeto, quest'anno è particolarmente l'impatto economico complessivo che le famiglie italiane, adesso io non voglio toccare altri argomenti che sono le bollette, sono i riscaldamenti, ci sarà la TASI, le famiglie italiane quest'anno hanno un impatto improponibile. Allora bisogna trovare tutti i sistemi, alcuni li avete già suggeriti voi nei vostri primi interventi. Quello per esempio di non comprare tutto il corredo scolastico tutto in una volta, vedere di fare una dilazione nel tempo, questa è la prima cosa. Naturalmente poi anche le griffe, vediamo un attimo di mettere un po' in maniera secondaria le griffe, comprare invece prodotti. Poi ci sono anche molte promozioni nei supermercati, se si gira ci sono delle promozioni. Ne parleremo nella seconda parte del programma, perché benissimo, abbiamo anche invitato qualche insegna della grande distribuzione, un grande colosso della vendita e-commerce che pure si è mosso, anche lì se viene contestato poi da canali di vendita tradizionali, però poi non possiamo non tenere Massimo sotto osservazione quello che su internet succede, perché ormai per molte famiglie è diventata, come dire, l'ancora di salvezza. Assolutamente, non ci si può nascondere da quella che è l'evoluzione un po' anche delle propensioni e comunque delle strategie di spesa delle famiglie. Giustamente la scuola rappresenta nel budget familiare una parte importante, anche perché magari vedremo più avanti, non è solo la spesa specifica per la dotazione di libri, delle cartelle, degli astucci, colore e così via, ma è anche un'organizzazione che deve avere la famiglia e magari guardare in prospettiva qualcosa per le lingue o altro. Allora, tra l'altro abbiamo perso un ascoltatore che ha 4 figli, voleva intervenire, credo che la telefonata sia caduta, ma adesso la recuperiamo. Iniziamo però con, c'è l'ascoltatore e Pietro da Como, lo abbiamo ripreso. Pietro, buongiorno, ci tenevo molto alla sua testimonianza. Buongiorno e grazie per darmi questa opportunità. No, intanto congratulazioni a lei per il coraggio di avere una famiglia che, come dire, possiamo in un contesto come quello attuale dire coraggiosa, perché con 4 bambini si comincia a fare un po' di fatica, anche se chiaramente credo che le soddisfazioni siano poi impagabili. Senta, no, che età? Guardi, sono due, cominciano la prima elementare, una in quinta elementare e una in seconda media, quindi... E non ancora, quindi, come dire, non si è ancora avventurato sul terreno delle scuole superiori, perché lì poi sono altri salassi. Quindi qual è come dire, la ragione del suo intervento, Pietro? Allora, due cose. Primo, per quanto riguarda il corredo scolastico, grembiuli, astucci, quaderni, il fenomeno del Grif a me mi risulta che sia solo una cosa italiana, perché io che per lavoro viaggio, vado in Svizzera, vado in Austria, vado in Germania, cioè gli astucci griffati ce li abbiamo solo noi. E la griff costa, perché per mettere un marchio, un cartone animato, un personaggio sul diario, certo, le aziende pagano e poi quel costo lì ovviamente arriva. E gliene chiedono in casa sua, Pietro, lei come si comporta? Io che devo fare? Devo per forza un po' adeguarmi, perché comunque dopo tutti i compagni, cioè, esatto, è che alla il tema fine è quello. Okay, con quattro figli si ricicla sempre un po' di roba per forza, però alla fine non si può stare completamente al di fuori, diciamo, da questo giro, diciamo. E poi secondo, riguardo ai libri di testo, io dico, ma la storia dell'impero romano penso che sia sempre quella da 2000 anni, quindi se ogni anno, ogni due anni devono rifare le edizioni, cioè io capisco che può esserci qualche aggiornamento didattico, ma comunque anche lì è un fenomeno solo nostro, cioè, di questo continuo cambio dei libri, che poi uno non riesce a comprarli usati perché l'edizione cambia leggermente, oppure fanno gli esercizi sui libri di modo che uno scrive sul libro e poi non può più essere riutilizzato, ecco. Pietro Sfonda, lei delle grandi porte aperte, e adesso chiederemo ragioni a chi studia tutto questo proprio per professione. Chiedo subito un commento a Daniele Grassucci, cosa ne pensa? Credo che tra l'altro osservazioni come quella di Pietro arrivino quotidianamente al vostro sito, no? Ai vostri monitoraggi, Daniele, e insomma le cifre anche che indicava prima Rosario Trefiletti. Ci puoi tu spiegare da che cosa arrivano editori, governo, aziende, quali sono le principali responsabilità che dobbiamo attribuire per questi rincari continui, visto che non possiamo neanche parlare di un aggancio all'inflazione che complessivamente in realtà non è invece tendente al rialzo, anzi sappiamo bene che stiamo combattendo un fenomeno macroeconomico del tutto diverso. Daniele. Beh sì, in realtà ci sono vari fattori, non è semplice andare a definire una causa, però c'è da dire questo, che da una parte appunto il Ministero ha fissato i tetti di spesa, quindi ha cercato di calmierare questo tipo di, insomma, spesa, però poi sappiamo che i tetti di spesa non vengono sempre rispettati e soprattutto non ci sono dei controlli automatici, ecco, cosa che invece sarebbe possibile fare, perché il Ministero ha disponibile il database degli editori, quello insomma con tutte le adozioni, per cui si potrebbe fare un semplice programmino informatico per cui praticamente si vede ogni classe quanto ha speso e quindi automaticamente rilevare quando ci sono scostamenti rispetto al tetto di spesa, quindi sarebbe molto semplice far sì che il rispetto sia integrale sostanzialmente. Però ecco, questo non avviene. E poi c'è da dire una cosa, ecco, gli editori comunque cercano di difendere il loro business, come è normale che sia. Noi dobbiamo ricordare una cosa: nel 2013 Profumo impose per l'anno 2014-2015, cioè quindi per quest'anno, che era il ministro, non il banchiere, sì, ecco, il ministro Profumo, sì, io lo do per scontato lavorando io. Hai fatto benissimo, hai fatto bene a precisare, ecco, per quest'anno aveva imposto un abbattimento dei tetti di spesa per le classi prima media, prima superiore e terza superiore del 20% elevato al 30% nel caso dell'adozione di tutti i libri digitali. Ecco, dopo due mesi c'è stato il ricorso degli editori al TAR, proprio perché questo andava a minare appunto la loro redditività, è proprio scritto nelle motivazioni, certo, di questo ricorso, e poi di lì a poco Carrozza, ecco, emanò un provvedimento più leggero. Ecco, quest'anno ci sarà un risparmio del 30% sui tetti di spesa, se saranno adottati tutti i libri digitali, quindi penso un caso abbastanza raro, certo, e del 10% solo se verranno adottati tutti i libri misti, anche in questo caso non è detto che ci sia, quindi insomma ecco, si potrebbe fare di più per far risparmiare le famiglie. Esatto, hai fatto bene a ricostruire questa storia, anche se ribadisco appunto questa mattina non vorrei di nuovo scatenare la guerra con l'editoria scolastica, altrimenti li avremmo chiamati. Il tema che vogliamo affrontare questa mattina è, come dire, dare qualche suggerimento alle famiglie per poter risparmiare, soprattutto raccogliere le loro testimonianze dirette di esperienza pratica di vita quotidiana per capire come ci si organizza appunto tra le famiglie del nostro paese. Vuoi fare un commento intanto, Massimo, rispetto a tutto quello che abbiamo ascoltato fino a questo momento? Assolutamente sì, molto interessante la testimonianza di Pietro, quattro figli. Proprio di pochi giorni fa è uno studio americano che ha quantificato il costo per portare un ragazzo dalla nascita fino ai 18 anni, sono l'equivalente di circa 200.000 euro, 4 per 2 fa 8, quindi Pietro deve, diciamo, mettere a budget 800.000 euro, se vogliamo, è una cifra spropositata, e viene da pensare che Pietro sta lavorando per il futuro del paese, perché 4 figli rappresentano, esatto, un grande investimento, dato lo sbilancio, e forse anche, visto che si parla molto di spending review, comunque di agevolare il paese, ecco, una politica fiscale per le famiglie, secondo me, si rende sempre più necessaria, cioè aiutare chi ad esempio ha figli che vengono portati allo studio, vengono proiettati in un, diciamo, percorso che dovrebbe creare quel valore aggiunto per il paese, ecco, va aiutato sicuramente. Certo. Preside Rusconi, naturalmente vogliamo sentire anche la sua voce, intanto ben ritrovato a Cuore Denari, buongiorno. Tra l'altro non le chiedo commenti sul tema dell'editoria scolastica, perché io scherzo sempre con lei ogni anno quando le invitiamo in questo contenitore, appunto so bene quello che lei pensa a proposito della dotazione dei libri, a lei piace sentirne l'odore, per cui lei è un grande amante di quelle biblioteche molto vaste nelle nostre case. Poi però arriva Pietro con la sua famiglia numerosa da Como, che insomma non ci sta dentro con tutte queste spese, anche se ancora è nella scuola dell'obbligo, appunto, e forse è un po' più sostenibile, ma quando questi 4 bambini cominceranno a diventare adulti e andranno alla scuola superiore, lì saranno un po' di dolori. Ci dà un po' il suo punto di vista, come possiamo consigliare alle famiglie di affrontare, come possono affrontare il caro libri, che è un problema ricorrente di ogni anno in questo periodo e particolarmente doloroso, preside? Ma guardi, un primo, diciamo così, messaggio pratico, consiglio per gli acquisti è quello di rivolgersi ai mercatini dell'usato. Io capisco che dicendo queste cose, come giustamente diceva lei all'inizio, prometteva, uno scatena gli editori, i quali diranno: ma noi appunto diamo lavoro a decine di migliaia di persone, però insomma, penso che anche nell'editoria lavorino famiglie che in questo momento fanno fatica un po' a sbarcare il lunario. Senza alcun dubbio, però si tratta di vedere quali siano le priorità. Altrimenti, mi permetta un paragone, una metafora alla Gran Guignol, avremmo dovuto continuare a produrre le mini antiuomo della Valsella, perché la Valsella dava lavoro a molte persone, quando invece insomma è stata fatta una priorità e si è detto l'Italia non farà più produzione di mine. Non voglio paragonare i libri alle mine, sia chiaro, non vorrei una polemica di questo tipo, voglio dire che si tratta di contemperare delle esigenze. Allora, gli editori, noi per esempio da anni diciamo, cercate di sviluppare soprattutto tutta una serie di apparati, di libri, di DVD, di CD, eccetera, che possano servire alle biblioteche di classe. Alle scuole noi diciamo, ma capiamo che è un discorso più complesso perché riguarda il collegio dei docenti, il consiglio d'istituto e il preside, formate delle biblioteche di classe, sempre più. Se uno vede per esempio un filmetto americano, si rende conto come nel mondo anglosassone, ma io ho visto anche in Germania, ho visto in Finlandia per esempio, la classe è un piccolo spazio laboratorio che c'ha l'armadietto, c'ha i libri, cioè non tutti i libri dovrebbero essere comprati dagli studenti, anzi in questo modo si permetterebbe agli studenti di avere una varietà e una gamma, diciamo, di proposte culturali, formative, non solo scolastiche, molto più ampia. Secondo punto, si sta affermando sia pure molto lentamente l'idea che è nata a un liceo veramente straordinario di Brindisi, il liceo Maiorana, che lei mi sta anticipando la seconda parte del programma, perché abbiamo il preside dell'istituto Maiorana che ci racconterà di Book in Progress, preside Rusconi, al quale vanno tutti i nostri complimenti, e fermo restando, perché l'iniziativa, almeno questo posso dirlo, che di Brindisi si possa estendere, presuppone un lavoro con gli insegnanti in una scuola, e quindi presuppone diciamo che ci siano degli insegnanti motivati, e la motivazione, esatto, un aggravio dei loro compiti notevole, insomma, per chi vuole farlo. La motivazione è morale, ma è anche di denaro, insomma, questo momento di spending review, di denaro per le scuole e per gli insegnanti ce n'è molto poco. Ci fermiamo, preside Rusconi. Cuore e denari. Ci dicevano, insistevano di studiare, che da grandi ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo dovuto anche lavorare. Beh, Il tema della scuola ha ispirato moltissimi autori della canzone italiana, vero Massimo? Si sta volevi intervenire anche te? Sì, no, io anche non i nostri chapter 11, no, loro sono più dovremmo raccontare un giorno. Maturità avessi preso prima, no? Cantava esatto. Anche Venditti. Devo dire che l'argomento è chiaro, ci siamo passati tutti, quindi è qualcosa che tocca veramente la vita, l'animo, il futuro delle persone. E poi che emozione, vedo mio nipote che quest'anno va in seconda elementare, questo cuore in gola veramente, lo vedo così impegnato, molto preoccupato per le nuove responsabilità della seconda elementare. Pensavo a Pietro, tu il 15 settembre del 2027 sì. Hai degli impegni? Allora, al momento sull'agenda non ho segnato niente, ero già preoccupata per il fatto di averne fino al 4 dicembre, so che è incredibile quello che sto dicendo, sembro il Papa qualche volta, però no, perché, che succede perché in quella data? I bambini che oggi come i figli di Pietro iniziano la prima elementare sì. Avranno fatto tutto il percorso della scuola elementare, delle medie inferiori e quelle superiori, saranno lì a decidere se andare all'università, andare al lavoro, eccetera. Pensa come la scuola appunto deve assolutamente pensare in prospettiva, non può essere solo tattica, deve essere anche strategia, perché il percorso scolastico è lunghissimo. Allora, avete capito che si sta avvicinando il momento di tornare a studiare, di tornare a scuola, e noi oggi ne stiamo parlando a cuore e denari. Naturalmente affronteremo, e lo anticipo già nella seconda parte del programma, tutte quelle novità anche per quello che riguarda la ripresa dei ritmi consueti delle giornate dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Rispetto all'estate cambierà anche il modo di utilizzare le energie, di riposare, di mangiare. Tutto questo sarà affrontato con il nostro Massimo Gualersi, per cui se avete dei dubbi su come dire, un po' risvegliare anche i vostri ragazzi che adesso si saranno forse eccessivamente rilassati con le vacanze, chiamateci all'800 24 0024. Una fionda. Ma è meglio una fionda che una pistola, no? Un mattone. Ma e i libri dove ce l'hai? I libri? Ma ce l'ho tutti qua ce l'ho. E che ce fai con tutta sta roba? Ce lo so io. Ce lo sei te? Vabbè, via di là, via. Volo! Beh, sicuramente quantomeno ad Alvaro Vitali non pesa lo zaino, perché anche questo è un tema che forse dovremmo affrontare, un tema molto di cuore e denari, il peso dello zaino tutto caricato sulle spalle di questi piccoli, tutti sbilanciati con gran scoliosi, speriamo di no, però altro tema molto interessante. Siamo tra i pochi al mondo, insomma, sottoporre a un carico così pazzesco, certo, i bambini, che ragazzi. Se la scuola si potesse tutta convertire, parliamo ovviamente di un'era fantascientifica, al digitale, Massimo, molti problemi potrebbero essere superati, e se tutto questo fosse incentivato dal punto di vista fiscale. Ma oggi si parla molto appunto di usare i tablet, molte scuole lo stanno facendo in via sperimentale, addirittura dandolo incomodato d'uso, cioè significa non facendo pagare nulla, e poi eventualmente alla fine del ciclo scolastico magari permettendo alle famiglie di riscattarli con pochi euro. Rimane il problema del digital divide, cioè cosa significa? Significa che in molte famiglie non c'è tutta quella struttura tecnologica che comporta una scelta del genere, ad esempio lo stesso collegamento a internet, quindi proprio per questo bisognerebbe agevolare, se ci si crede in questo sviluppo, come bisogna crederci, agevolare anche da un punto di vista fiscale, cioè mi faccio il collegamento a internet, ho dei figli che studiano, aiutami a scaricarlo dal punto di vista fiscale. Certo, è un cambiamento radicale, culturale, oltre che anche perché se no si allarga appunto questo divario tra ragazzi che hanno la fortuna di avere famiglie che appunto ritengono queste scelte importanti e altre che hanno anche giustamente priorità diverse. Certo. Francesco da Bolzano aspetta da un po'. Francesco, buongiorno, all'800 24 0024. Lei interviene come insegnante, non come genitore. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti. Sono anche genitore di due figli, uno alle medie e uno alle superiori. Per cui vedo la problematica in un duplice aspetto. Il primo aspetto è sicuramente quello che se le case editrici fossero obbligate, lo so che è un discorso difficile, però a mettere tutti i libri in formato digitale, già questo sarebbe un risparmio gigantesco. D'altro canto, poi in classe io utilizzo normalmente una mia pagina Facebook di matematica o un blog di matematica, per cui alla fine vado incontro alle esigenze di tutti, non obbligandoli all'acquisto del libro. Tra l'altro per la letteratura classica, i romanzi, adesso quasi tutti gli scrittori scrivono su cartaceo, ma hanno anche la naturale trasformazione in ebook del proprio lavoro, per cui bisognerebbe capire quali sono le difficoltà nel far fare questo passaggio anche all'editoria scolastica. Daniele Grassucci, tu ne sai qualcosa? Beh sì, quest'anno c'è stato ecco anche un'innovazione di tipo normativo, ecco, perché in passato i professori erano obbligati ad adottare un testo, cioè non potevano dire mi arrangio con le mie dispense o con materiale alternativo. Ecco, l'ex ministro Carrozza, che peraltro saluto perché su Twitter ecco ci ha ricordato che lei andava a comprare i libri usati nel mercatino di fronte alla scuola, ecco, citando anche una canzone di Battisti. Ci sta ascoltando, ci stai dicendo, perché la salutiamo. Molto bene, grazie Daniele per avercelo segnalato e non mi ero accorta. Ottimo. Ecco, insomma, praticamente cioè proprio lei ha fatto questo tipo di innovazione col pacchetto scuola, che appunto non c'è l'obbligo per gli insegnanti di adottare libri, quindi ad esempio si possono utilizzare degli strumenti alternativi. In questo senso Salvatore Giuliano con Book in Progress è stato proprio ecco. E allora sai che facciamo Daniele? Sistema. Lo salutiamo. Preside Giuliano, buongiorno, ha sentito lei da meno un quarto d'ora che viene evocato tantissimo nel nostro programma. Benvenuto. Sì, sì, salve, ho sentito, buona giornata a tutti voi. Anche a lei. Allora Salvatore Giuliano, la presento ufficialmente al nostro programma, appunto è il preside dell'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi, capofila di questa iniziativa Book in Progress, 800 docenti in rete per realizzare i libri scolastici. Un'iniziativa alla quale lei ha pensato già dal 2008, preside Giuliano? Sì, esattamente dal 2008, i primi contenuti sono stati prodotti nel 2009 e li abbiamo consegnati alle allora, famiglie. Preside, mi scusi, qua la dotazione tecnologica sicuramente non vi manca, ma quella telefonica è un po' più problematica. Sono in autostrada, magari avevo fornito anche un altro numero, magari ci sentiamo su un altro numero. Sì, perché ci teniamo molto a sentire bene il dettaglio di tutta la vostra iniziativa, che peraltro si sta allargando a macchia d'olio, perché è partita da Brindisi e adesso coinvolge 103 istituti in tutta Italia. I testi per le prime e le seconde classi sono scritti da docenti, stampati o fruibili online, con un risparmio per tutte le famiglie di circa 300 euro, adesso vediamo anche come viene quantificato questo risparmio. Abbiamo avuto anche notizia verso qualche giorno fa, il 22 agosto, di un'adesione da parte di un gruppo anche di scuole dell'Emilia Romagna. Adesso andremo anche a capire meglio qualcosa del funzionamento, non abbiamo ancora Giuliano. Daniele Grassucci, chiedo a te appunto, che hai seguito con grande attenzione questa iniziativa partita da Brindisi, quali altre scuole stanno coinvolgendo al momento? In realtà ecco, questa che è stata un'iniziativa pilota voluta fortemente da Giuliano, che appunto non potendo ecco far adottare le dispense perché non c'era la norma si è inventato una casa editrice, cioè di fatto queste sono diventate un editore. Ecco, questa esperienza adesso è stata messa a sistema, per cui da quest'anno il Ministero promuoverà proprio la formazione di reti di scuole per la realizzazione di materiale didattico che verrà messo in rete e quindi diventerà patrimonio comune per tutto il sistema scolastico. Quindi c'è voluta italiano. L'iniziativa individuale di un preside, ma in realtà poi pian piano si sta un po' propagando, no, questa nuova modalità di fruizione anche del testo scolastico. Daniele, non è poi, come dire, un cambiamento che a quanto pare sembra così ostacolato anche concettualmente dagli insegnanti? Sì, il problema è le norme. Prima non c'erano le norme, perfetto. Adesso ci sono proprio dei decreti che favoriscono questo. Voglio anche ricordare una cosa alle famiglie, che c'è con quello di cui stiamo parlando, ma ritorna sul tema del risparmio. Ecco, quest'anno è stato aumentato, è stato raddoppiato da 47 a 100 milioni di euro il fondo per l'acquisto di libri da destinare alle famiglie meno abbienti, quindi come il caso di Pietro, quell'ascoltatore che ha quattro figli. Sì. Ecco, sicuramente lui rientrerà in quei criteri, quindi ecco, consiglio a tutte quelle famiglie che sanno di avere un reddito molto basso, magari di attendere l'inizio dell'anno, comunque di andare già a chiedere nella segreteria scolastica per capire ecco se c'è la possibilità di avere dei libri incomodati. Adesso faccio cercare a Marco Lombardo subito un po' di materiale su questo fondo, grazie Daniele per avercelo segnalato. Preside Giuliano, ci siamo? Sì. Sì, sì, adesso credo che vada molto meglio. Molto meglio. Ci racconti tutta la storia di Book in Progress. Allora, è nata nel 2009 da una semplice idea, scrivere contenuti direttamente sui ritmi di apprendimento dei nostri ragazzi. E i materiali sono stati prodotti dai docenti e il primo anno abbiamo consegnato i materiali autoprodotti per 5 discipline con lo zainetto d'istituto che fa molto squadra. Poi la notizia si è diffusa e attualmente scuole che sono interessate al progetto sono circa 200 di ogni ordine e grado diffuse su tutto il territorio nazionale. Quindi 200, perché io prima ne avevo segnalati un centinaio, quindi almeno 200, il doppio. Attualmente quindi. Quelle che già adottano sono circa 140-150, più tutte quelle che entreranno a partire dal 1° di settembre. Quindi qua che impegno richiede questo lavoro, preside Giuliano, per gli insegnanti? Perché un po' l'aspetto che abbiamo sollevato prima è anche, come dire, il raddoppio dell'impegno, no, per i professori che devono mettersi lì anche a elaborare questi documenti, questi testi? Beh, adesso grazie alla rete l'impegno, che rimane sempre notevole, è comunque diminuito ed è ripartito. I docenti si riuniscono in dipartimenti redazionali nazionali, individuano il loro coordinatore, i loro contenuti e lavorano sia in presenza, almeno due volte l'anno si incontrano, sia attraverso una piattaforma collaborativa a predisporre i materiali. E alla fine del percorso di creazione dei materiali vengono adottati dai collegi, dei docenti delle rispettive scuole e vengono fornite alle famiglie in diverse versioni, quindi certo. Stampa, digitale e iPad. Preside Giuliano, c'è stato un momento in questi anni in cui lei ha detto ma chi me l'ha fatto fare di inventarmi questa cosa? Oppure è stato tutto un percorso solo, come dire, costellato di soddisfazioni e incentivi a continuare? Beh, le difficoltà ci sono sempre state, ci sono tuttora, ma andiamo avanti, come dico sempre, perché la soddisfazione più bella è quella vedere i nostri alunni contenti di venire a scuola, perché poi da prodotto si sta trasformando in metodo, il book in progress, felici e soprattutto il ritorno dei risultati di apprendimento dei nostri ragazzi, che sono decisamente superiori rispetto alla media. Se ci fosse qualche scuola intenzionata ad aderire alla vostra iniziativa, cosa deve fare? Semplicemente andare sul sito, come dico io, vivaviva.bookinprogress.it e trova tutte le informazioni. Benissimo, e tra l'altro appunto ricordo che questo progetto, che non è più un progetto, ormai è un'iniziativa ben consolidata, riguarda i testi delle prime e seconde classi di licei, istituti tecnici e professionali, italiano, storia, geografia, chimica, matematica, fisica, tecnologia, disegno, inglese e altre. Questo è l'elenco delle materie di cui sono disponibili i testi e visibili sul sito appunto www.bookinprogress.it. it.org, preside Giuliano. .org, ma rimanda appunto it. Ottimo. Sono equivalenti, quindi l'uno vale l'altro. In bocca al lupo per tutto. Volevi, lupo, aspetti un attimo, Massimo, volevi. Il preside Giuliano ha detto una cosa molto importante: non è che l'utilizzo della tecnologia comporti la sparizione della carta, deve integrarsi tutto. Ecco. Questo dobbiamo capire bene, perché il piacere della lettura di un libro sulla carta, dell'analisi di un libro, delle possibilità. Esatto, di conservarlo. E no? questo è molto interessante. Bisogna dare la possibilità proprio di crescita da questo punto di vista di alcuni capisaldi che devono essere mantenuti proprio per un arricchimento culturale. Cuore e denari. Se fino a qualche anno fa una maestra rap, un insegnante rap poteva essere il massimo dell'avanguardia, adesso invece siamo nell'era degli smartphone, dei tablet, andiamo ben oltre come abbiamo raccontato fino a questo momento. Stiamo chiudendo la nostra prima parte del programma e devo salutare intanto Rosario Trefiletti, a cui chiedo una chiosa finale dal punto di vista dell'Associazione dei Consumatori su quello che abbiamo sentito fino ad ora, poi andremo alle iniziative delle catene della grande distribuzione di Amazon. Trefiletti, così la salutiamo. Mi è piaciuto molto l'intervento di Salvatore Giuliano, anzi voglio ricordare che lui non solo è l'inventore, è uno dei promotori di questa questione del booking in progress. Oltretutto ho avuto anche l'onore di fare assemblee, perché lui è molto aperto alla socialità, lui fa fare le assemblee anche con chi opera nel sociale. Io ho avuto l'onore di vedere sin dall'inizio questa procedura del booking in progress, già nel 2008-2009, e addirittura anche nelle assemblee con i suoi studenti. Poi ma c'è da sottolineare l'importanza che il booking in progress significa, fatto come le fa l'Istituto Majorana di Brindisi, che c'è anche un'interazione tra studenti, tra i fruitori e anche gli operatori, quelli che poi fanno, realizzano il libro, perché ci sono anche consigli, suggerimenti e via dicendo. Quindi si vada in quella direzione, si può risparmiare e risparmiare tanto. Aggiungo e chiudo che soprattutto sul le novità delle nuove edizioni, lì bisogna andare molto sull'informatica, proprio perché è inutile ristampare un libro quando c'è solo la modifica di un esercizio a pagina 32, l'esercizio di matematica a pagina 32, lì si faccia subito immediatamente una innovazione, un aggiustamento attraverso internet. Grazie Rosario Trefiletti, che salutiamo, torneremo con lui sicuramente prossimamente con altri osservatori. Chiedo anche un commento finale a Mario Rusconi. Vicepresidente dell'Associazione Presidi, sì. Sì, la mia osservazione forse è un po' fuori dal coro, nel senso d'accordo per il libro digitale, che non può, come diceva anche chi mi ha preceduto, che non può assolutamente sostituire in pieno, e ci sono mille ricerche da questo punto di vista, il libro anche stampato. Nello stesso tempo io raccomando anche una cosa ai genitori, siate un po' più genitori, nel senso che se state un po', diciamo così, lamentandovi per il costo dei libri, lamentatevi però pure per il costo di scarpe da ginnastica, che molto spesso stanno sulle 300 euro. Quindi magari un paio di scarpe da ginnastica un po' meno costoso e qualche libro magari di narrativa, di letteratura europea eccetera, in più nella vostra biblioteca. Sa che questo suo messaggio noi lo abbiamo sempre grandemente sponsorizzato, Presidente Rusconi, grazie molte per essere stato grazie con noi. A voi. Adesso andrei alle due iniziative che voglio presentarvi, ne abbiamo scelte due, avremmo potuto sceglierne 2000 perché ce ne sono tante di iniziative nel mondo del commercio per andare incontro alle famiglie in questo frangente così complesso, in cui appunto le famiglie devono far quadrare i conti. Allora saluto Giacomo Trovato, responsabile categoria libri di Amazon Italia. Buongiorno Trovato. Buongiorno. Allora ci racconti un po' in che cosa consiste Amazon 15 e lode. Dunque, l'operazione 15 lode, per dirle molto, in modo molto semplice, consente ad una famiglia che ha figli in età scolare di venire sul sito di Amazon, trovare molto rapidamente la lista di tutti i libri adottati per la propria classe, ordinarli in pochi clic e riceverli comodamente a casa senza fare code. Con un po' di sconto magari il tutto, anche? Il tutto con, e di qui il nome dell'iniziativa, con il 15% di sconto. Incredibile Trovato, eh? Come avete fatto ad allestire un'iniziativa di questo tipo? Perché in primo luogo appunto dovete fare la banca dati, diciamo, di tutte le scuole, di tutte le classi, e quindi capire anche, fare la lista dei testi adottati eccetera, e insomma avete avuto modo di capire che per le famiglie era fondamentale poter ottenere un risparmio di questo genere? Sì, noi quello che abbiamo verificato, perché fortunatamente i clienti ci scrivono, è che i clienti ricercano due valori principali, che sono il risparmio e la convenienza. Quindi dal punto di vista del risparmio, il 15% è il massimo sconto che la legge consente di praticare sui libri. E quindi noi stiamo attribuendo ai clienti il prezzo più basso che possiamo offrire. Quali città hanno la maggiore sensibilità alla ricerca, diciamo, del testo per la scuola sul canale online? Ma questo è una ricerca che abbiamo fatto. Te lo chiedo perché so che avete fatto appunto una ricerca anche geografica. Sì, in Amazon ci piace certe volte tirar fuori delle curiosità. E, quindi abbiamo verificato quali erano le città dove c'era la maggiore propensione all'acquisto dei libri di testo online, e siamo rimasti sorpresi un po' dal vedere i risultati. Hanno vinto le città del Veneto, quindi al primo posto c'è tra le città più grosse Padova, Vicenza. E viceversa, tra le grosse città, Roma batte Milano. Infatti ho visto che Milano è al 15° posto di questa classifica speciale. Invece per quello che riguarda, come dire, si riesce anche a capire qual è la scuola più costosa, quella per la quale viene ricercato di più questo canale per risparmiare Trovato? Ma questo, volendo, possiamo fare tutte le ricerche che vogliamo. Normalmente le scuole che costano di più, le sezioni che costano di più, sono le prime classi dei vari cicli, fosse essa la prima media o la prima superiore. Certo, perché poi lì bisogna dotarsi anche del vocabolario, che poi magari basta per tutti i 5 gli anni, però comunque c'è magari un acquisto unico, ma tutto caricato sul primo anno per l'appunto. Esatto, io faccio un esempio personale, visto che ho una figlia che sta per andare in prima superiore. Nella sua classe ho dovuto comprare 14 libri adottati, alcuni dei quali si conserveranno per gli anni successivi. Adottati dalla scuola, sì, dalla certo. Scuola, esatto. E il costo complessivo era di 289 euro. E quindi il 15% di sconto tradotto in euro ha avuto un valore di 43 euro, che non ha guastato. Diciamo certo, così. Perché lei naturalmente ha comprato su Amazon, ovvio. Esatto. Grazie a Giacomo Trovato. Vuoi fare un commento, Massimo? Questo del 15%, come giustamente indicava Trovato, è la soglia massima. Infatti tutta la grande distribuzione, praticamente in un modo o nell'altro, adesso vedremo anche il caso specifico, sta adottando questa strategia, facendo lo sconto diretto oppure oppure dando in cambio dei buoni da spendere entro una determinata data. Come fa, ho visto proprio agli ipermercati e alle librerie Giunti, danno addirittura, se restituisci il vecchio libro scolastico, ovviamente della stessa casa, della stessa casa editrice, deve essere, ti danno l'equivalente proprio del costo del prezzo di copertina in buono da spendere entro quindi la fine dell'anno. Quindi se io 3 anni fa l'ho pasticciato un po' e l'ho pagato 25 euro, vuol dire che hai studiato bene, tra l'altro. Che ho studiato quindi, molto, ma mi ridanno 25 euro. Spendibili sempre in libri, ovviamente, della stessa casa editrice. Alberto Miraglia, direttore marketing di Auchan, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo qua un'altra testimonianza, una insegna della grande distribuzione. Io specifico subito agli ascoltatori che abbiamo scelto questa perché avevo fatto caso a questo comunicato stampa che mi era arrivato il 4 luglio, per cui, come dire, voi vi siete mossi con largo anticipo. Avete fatto questa iniziativa insieme a Simpli, da Auchan e Simpli, acquistando i testi scolastici si risparmia sul carrello della spesa. Miraglia. Sì, diciamo che l'iniziativa parte in anticipo proprio per dare il tempo alle famiglie di organizzare e pianificare i propri acquisti, e questo dà un vantaggio, nel senso che, come diceva anche il collega di Amazon, c'è la possibilità, così anche per Auchan e per Simpli, di prenotare i libri online e quindi trasformare il risparmio in un buono spesa, in modo che così la convenienza si trasforma in convenienza anche nella... Mediamente a quanto ammonta questa conversione, questa trasformazione, Miraglia? Lo sconto è del 15%. E le famiglie poi possono prenotare, e nel momento in cui il libro è disponibile vengono avvisate e quindi possono andare anche senza fare code, perché c'è una... Quindi se il risparmio su questo corredo, diciamo, di libri fosse di 50 euro, voi praticamente date un buono spesa. Esatto, del 15%, quindi in questo caso di 7,50 euro. Anche voi avete fatto poi il kit scuola completo al di sotto dei 10 euro, come hanno sempre fatto in questi anni i cartolai italiani, Miraglia. Esatto, questa è una cosa altrettanto importante, perché il fatto di poter acquistare il kit a 9,99 euro, quindi lo zaino e altri 14 prodotti, permette a chi vuole veramente risparmiare il più possibile di avere il pacchetto completo della propria cartella, diciamo, a meno di 10 euro. Questo è un po' il trend di questi ultimi anni, soprattutto di quest'anno, il fatto che i nostri clienti vogliono comprare i prodotti, lo stretto necessario per quello che gli serve, quindi non le grandi confezioni, quindi pacchetti da 20 penne, ma la possibilità di poter comprare anche una sola penna che costa 20 centesimi o un solo maxi quaderno. Ecco, senta, ma voi come osservate invece la questione della ricerca dei prodotti per il corredo scolastico un po' griffati? Lei sa che comunque con i bambini poi è un po' complesso, no, combattere quando si va lì e vogliono le fattine Winx, Spider-Man o che altro. Ma noi vanno alla grande questi prodotti griffati? Sicuramente vanno. Quello che noi facciamo è cercare di dare, avendo la possibilità, gli spazi per farlo rispetto magari a una cartoleria, di dare la possibilità a tutti di scegliere qualsiasi cosa, quindi dal prodotto perfetto, meno caro al prodotto più caro. Grazie ad Alberto Miraglia. Insomma, guardiamoci intorno anche nella grande distribuzione, la facciamo così. Io dopo devo parlare di alimentazione per i bambini che riprendono la scuola, ma magari rubo 2 minuti al dottor Gualerzi, quindi chiedo solo un istante a Massimo Esposti di rimanere con noi, lo chiedo anche a Daniele Grassucci e lo chiedo anche ai nostri ascoltatori Mario da Venezia e Alberto da Imperia, che sentiremo subito dopo. Cuore e denari. Torniamo a scuola, agli inizi di settembre, oggi completiamo appunto questo primo ragionamento che abbiamo fatto sulle spese che dovranno sostenere le famiglie italiane per questo rientro a scuola, una spesa particolarmente importante soprattutto per chi farà la prima superiore, quantomeno sulla scuola dell'obbligo ancora possiamo, Massimo Esposti, barcamenarci con cifre ragionevoli. E allora, prima di concludere, abbiamo mantenuto con noi per un attimo Daniele Grassucci di scuola.net, perché voleva così rappresentarci un po' un confronto sulle spese che si sostengono se si utilizzano i canali tradizionali, quindi chiaramente negozi, centri commerciali e quant'altro, oppure il canale online. So che voi avete monitorato anche tutto questo, Daniele. Sì, abbiamo chiesto a 6.000 ragazzi insomma come vengono acquistati i libri, abbiamo scoperto che il 55% dei ragazzi, quindi le famiglie, acquista i libri nuovi nelle librerie, cartolibrerie. Ecco, questo non toglie nulla a questi esercizi, però ecco, si perdono tutti quegli sconti, ecco, della grande distribuzione dell'online, che era tutto quello di cui parlavamo, oppure quello che si può trovare anche nei mercatini del libro saldo, dove sappiamo che si trovano, anche se non si dovrebbero trovare, le copie saggio, quindi sono dei libri nuovi dati dagli insegnanti sul mercato, e che hanno uno sconto sul prezzo di copertina maggiore del 15% pur essendo nuovi. Questo lo diciamo anche se non si potrebbe dire. Vabbè, noi possiamo dire tutto, Daniele. Allora, tra l'altro, a proposito di poter dire o dire delle cose, o come ho già precisato all'inizio, ho scelto un'insegna della grande distribuzione che peraltro non è mai venuta ospite nella nostra trasmissione. Ovviamente prontamente molti hanno contestato la scelta, segnalando le iniziative anche di altre grandi insegne della grande distribuzione che ho già detto ci sono, per cui insomma non offendiamoci per il fatto che ho scelto un marchio francese rispetto agli italiani. Ogni famiglia ha un grande centro commerciale vicino a casa sua e sicuramente potrà trovare le migliori offerte per la propria famiglia, quindi non vogliamo tornare più su queste polemiche. Alberto da Imperia, vorrei sentire. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Rapidissimo, se ce la fa, la ringrazio. Velocissimo, due cose. Una, per quanto riguarda il formato elettronico dei libri. Capisco, diciamo, la frenata verso questo supporto, perché per un produttore di libri lasciare sul mercato un diciamo il proprio prodotto in formato elettronico vuol dire che lasciarlo nel mercato libero, poi nel senso che facilmente poi si trova su internet e uno lo compra e mille lo usano. Ah, vabbè, ok. Mentre un libro vabbè, è certo che l'editoria tradizionale guarda con un po' di fumo negli occhi questa novità. Giustamente visto da loro. Però sa come, Alberto, adesso sicuramente guardiamo con un po' di sospetto e difficoltà questa novità. Io credo che nel giro di 10 anni sarà ineluttabile questa trasformazione così radicale, per cui poi ci faremo i conti a tempo debito. Altra osservazione, Alberto, poi la dobbiamo salutare? Sì, una cosa velocissima. L'anno scorso mia figlia faceva seconda scientifico e c'era da adottare un libro di matematica. Mia moglie insegna matematica e l'anno prima aveva proprio quel libro lì, inteso come editore, titolo del libro, versione. Peccato che l'ISBN era diverso, cioè il codice identificativo del libro. Ne abbiamo trovato uno, diciamo, corretto, quello che avrebbe dovuto comprare mia figlia, e l'ho confrontato con quello che avevo io. Erano uguali? I contenuti erano esattamente gli stessi, spostati. Chiaro. Alberto, quindi una pura, come dire, modifica estetica, ma non nella sostanza, che però l'ha costretta a fare questa spesa. Grazie, volevo sentire rapidamente Mario da Venezia, poi devo andare alle conclusioni con Massimo Esposti e sentire il dottor Gualersi. Mario, buongiorno. Buongiorno a voi. Bimba di 10 anni che va in prima media, cosa ha fatto a scuola? 2 mesi fa abbiamo fatto un incontro con tutti i genitori e io ho chiesto che se c'era la possibilità di usare il tablet che mia figlia usa ormai da qualche anno, era il mio vecchio tablet di lavoro, e hanno detto di no perché si creano delle differenze tra chi può avere un tablet e chi non può averlo. Per cui sono stati irremovibili da questo punto di vista. Tra l'altro, Mario, adesso l'acquisto di un tablet sta diventando veramente sempre meno oneroso, sicuramente molto più conveniente di tutto il corredo scolastico dei libri. Massimo Esposti, chiudiamo magari adesso senza dover sponsorizzare ovviamente già il passato. No, ma assolutamente. Può anche esserci che ci sia una differenza poi sociale all'interno della classe che va monitorata dagli insegnanti. E tra l'altro questo, i genitori devono fare il sacrificio di aiutare la scuola a capire la situazione, partecipando ogni tanto agli incontri e non avendo, diciamo, timore a esprimere quella che è la loro situazione familiare o meno dal punto di vista delle possibilità, perché in questo modo si può adottare una strategia assolutamente realizzata sulle reali necessità delle famiglie. Novità per quest'anno per il quotidiano in classe? Il quotidiano in classe, sì, certo, che Sole 24 Ore realizza con l'Osservatorio Giovani Editori, è un blog nel quale ogni settimana lanciamo un tema al quale, diciamo, rispondono con lavori multimediali le classi, tantissime, sono migliaia in Italia, raggruppate in piccole redazioni, ed è un monitor importante che abbiamo da alcuni anni, che segue l'iniziativa dei giovani editori, cioè del quotidiano in classe cartaceo che viene mandato dal Sole 24 Ore, dal Corriere, dal Quotidiano Nazionale, e escono delle cose importanti. Ti dico solo un particolare: una volta il tema che avevo lanciato era la crisi in casa casa vostra si parla, e per dire di coinvolgere anche i ragazzi, non pensare che siano immaturi. Questa ragazza liceale diceva: in casa mia ho capito che ci sono difficoltà economiche, ma quando ne parlano mio papà e mia mamma mi escludono, mi dicono, perché non mi coinvolgete? Voglio capire che cosa posso fare anch'io. Grazie per questo ultimo messaggio che ci sembra molto molto interessante. Massimo Esposti, io grazie a voi. Purtroppo devo non accontentare gli altri ascoltatori che sarebbero voluti intervenire su questo argomento, ma adesso allora i premi economici ci riteniamo noi zio, genitori, adesso occupiamoci dei nostri ragazzi che devono andare e ritornare a scuola pieni di energia. 8:20, prima campana, e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe e di occhiali di corsa sulle scale. Per qualcuno sarà la prima volta assoluta con la scuola, pensiamo ai primigeni, all'agitazione di questi nostri piccoli che affrontano la prima elementare, ma c'è anche chi ad esempio è un po' più adulto, un po' più grande, inizia la seconda, la terza liceo, la quinta superiore, anno che sarà particolarmente impegnativo con gli esami di maturità e poi le scelte da impostare quest'anno per poi affrontare tutto il futuro. Dovrà essere probabilmente presa nei prossimi mesi la decisione di quale facoltà universitaria intraprendere, quindi se si comincia l'anno in forma, con lucidità mentale, con serenità, allora certamente siamo a metà dell'opera. Quali sono le regole per affrontare bene l'inizio dell'anno, come impostare correttamente anche l'alimentazione, anche perché i più giovani magari hanno esagerato anche loro con noi durante le vacanze e devono rimettersi un po' in riga per gestire bene l'inizio dell'anno scolastico. Allora, per tutti i suggerimenti su questo tema, quindi mamme e papà, prendete appunti. Oggi abbiamo un graditissimo ritorno a Cuore Denari, quello del dottor Massimo Gualerzi, cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma, dell'Università di Parma, ed esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Dottore, buongiorno, ben trovato. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ci dica un po' come si vince lo stress che si crea con l'inizio della scuola. Carichiamo i nostri ragazzi anche un po' di ansia, no? Invece di alleggerirli, sarà un anno lungo, impegnativo, ma insomma sia per i piccoli che per i più grandi, ma come lo facciamo vincere questo stress di inizio anno scolastico? Sì, sia il ritorno al lavoro che il ritorno a scuola, oppure la prima volta che si va a scuola, non deve essere, diciamo, un momento fonte di stress né per i ragazzi né per i bambini. Occorre prima di tutto adeguarsi lentamente ai nuovi ritmi, cioè impostare ritmi un pochino più rigidi di vita rispetto a quelli che avevamo adottato nella pausa estiva, durante le vacanze, o i ritmi domestici, quindi andando a letto un po' prima, imparare anche qualche giorno prima dell'inizio di scuola di svegliarsi un po' prima. E diciamo la cosa più importante è quella comunque di non cambiare drasticamente le abitudini, quindi comunque continuare assolutamente, così come durante le vacanze estive, a rimanere almeno al pomeriggio un po' all'aria aperta, fare sport, movimento, giocare, perché ricordiamo sempre che l'attività fisica, il gioco e la luce, fin tanto che c'è, ammesso che quest'anno insomma abbiamo di visto non ce n'è stata tanta, è un ottimo modo per antagonizzare gli effetti negativi del cambiamento, che comunque in parte ci sono e vanno vinti appunto nel modo diciamo che abbiamo appena detto. Cioè, dottor Gualerzi, tra l'altro, visto che lei è un medico, adesso non è certamente esperto di problemi della schiena o meno, ma abbiamo sollevato qualche minuto fa la questione anche del peso degli zainetti che sono pieni di libri, tutto il materiale scolastico, molto spesso in i bambini anzi non sono a questa età strutturati fisicamente per poter gestire un peso del genere nella schiena. Che cosa dobbiamo dar da mangiare a loro? Gli spinaci di braccio di ferro per fargli gestire anche pesi di questo tipo? Ha un suggerimento anche su questo? Il problema dell'alimentazione quando si va a scuola è difficile, anche perché delle volte, soprattutto per i più piccoli, è difficile fare la colazione, perché già svegliarsi presto diventa difficile, quindi è difficile farla. E poi i bambini, spesso ricordiamo che solamente il 30% dei nostri figli, dei nostri ragazzi, fa colazione prima di andare a scuola. Questo è un dato molto brutto e quindi non si ha la giusta energia. E un buon modo per fare, diciamo, colazione è quella appunto di svegliarci un po' prima e provare a farla tutta la famiglia insieme per ricreare un po' l'ambiente tipico della vacanza. Far scegliere i cibi, io direi che i più piccoli dovrebbero imparare, o comunque dovrebbero fare loro la spesa insieme alla mamma, supervisionandoli per evitare eccessi di schifezze, perché questo crea anche l'entusiasmo nel mangiare ciò che hanno scelto alla mattina, potrebbe essere un buon. Quindi in questo caso direi più della qualità, almeno puntare sul fatto che la facciano, e se proprio non si riesce, e qui ci sarebbe da fare un patto fra genitori, scuola, appunto ragazzi. Se proprio non si riesce, si potrebbe fare appunto cogliere al balzo la possibilità di fare tutti insieme. In alcune regioni viene da fatto anche con l'aiuto di alcuni medici che si sono, diciamo, spesi a livello locale per creare questi progetti, fare colazione tutti insieme la mattina, perché farle insieme, diciamo, può essere anche più divertente. Esatto, un'idea educativa direi assolutamente da sposare, dottor Gualerzi. Allora, naturalmente poi queste indicazioni che lei ci ha appena dato, soprattutto appunto quando si riferiva a quei bambini che fanno alcuni capricci per fare la prima buona colazione, sono suggerimenti per, come dire, chi farà la prima elementare, la seconda, bambini di 6, 7, 8 anni. Andiamo ai più grandicelli. Tra l'altro ricordo anche ai nostri ascoltatori che magari si ritroveranno prossimamente ad affrontare anche le questioni alimentari per la propria famiglia, soprattutto appunto per quella parte della famiglia che riprenderà la scuola. Chiamateci all'800 24 00 24 se volete discuterne con noi, appunto quali sono le abitudini di casa vostra, la colazione tutti insieme e la mattina anche per invogliare magari il più pigro della famiglia che la mattina fa un po' più difficoltà a mangiare. Andiamo ai più grandicelli, dottor Gualerzi, scuole medie e quindi adolescenti, parliamo insomma di quella fascia d'età dai 12 ai 15 anni, la piena età dello sviluppo, dei brufoli, mi viene da dire, niente cioccolato intanto per l'acne, ma come spuntino di metà giornata per affrontare storia e geografia di metà mattinata, anzi può andare? Allora, innanzitutto tengo veramente a esorcizzare la credenza che il cioccolato faccia venire i brufoli, no? Perché casomai, purtroppo a quell'età sono più i grassi animali saturi, tipo le maionesi, gli intingoli, le salse, le carni grasse, no? E il panino del fast food che è responsabile dei brufoli. Anzi, il cacao, e parlo di cacao ma anche di cioccolato di buona qualità, aiuta proprio a combattere lo stress, quindi benvenga anche a colazione. E infatti il cacao, attraverso l'apporto di nutrienti come, adesso ne citiamo uno, il triptofano, che è un amminoacido che noi non siamo in grado di produrre da soli ma che quindi lo dobbiamo mangiare, e stimola la sintesi della serotonina, che sappiamo bene che essere il neurotrasmettitore del benessere, che a sua volta stimola appunto la regolazione dell'umore e dell'ansia. Mm-hmm. Quindi il triptofano è contenuto molto nel cioccolato, così come nell'avena, nei cereali, nella frutta, ad esempio le banane. E quindi io consiglio vivamente, anche per rendere la colazione più gradevole, magari di prendere qualche cereale con qualche scaglia di cioccolato all'interno, no, del latte. Mm-hmm. Per poter in questo modo partire con dell'energia, con del gusto, ma anche con dei sani principi per produrre appunto questi ormoni. Ricordiamo poi anche la merenda, perché questi ragazzi devono continuare appunto la giornata e quindi avere energia pronta tutto il giorno, magari passare alla frutta, gli agrumi, e soprattutto scegliere cibi ricchi di vitamine del gruppo B. Anche questo è fondamentale per il nostro neurotrasmettitore, quindi per far funzionare bene il cervello. Ancora una volta cereali, agrumi, e riscoprire un po' il miele che, spalmato su una buona fetta biscottata, ecco, o di pane, è l'ideale per trovare l'energia ma anche il sorriso, appunto grazie ai gruppi, alle vitamine del gruppo B. Ci mette anche un po' di buon umore, ottimo, mi sembra un buono spunto per stare anche volentieri a scuola. Andiamo adesso al liceo, dottor Gualerzi, entriamo in una scuola superiore, qua insomma un momento molto delicato, le ore sui libri si moltiplicano, più impegno per tutti, molta più vita sociale anche a quest'età, parliamo dai 16 anni in su, sport, amici, magari anche qualche primo amore, insomma in questo periodo così delicato l'alimentazione immagino assuma un ruolo fondamentale per gestire al meglio tutti gli impegni dei ragazzi che hanno questa età. Quali consigli per cominciare bene la giornata e mantenersi belli attivi durante tutto il giorno? Sì, questa è la tipica età in cui si inizia, a differenza appunto dell'età più piccole, no? A bere di meno. E quindi un consiglio che voglio dare, al di là dei classici, quindi partire con energia, quindi con cereali, pane, marmellata, è quello di bere, ricordarsi di bere, perché ci si inizia a quest'età a dimenticarsi di bere. E ricordiamo che tutti i processi energetici avvengono solo in presenza delle giuste quantità di acqua e di sali minerali, quindi molto spesso la carenza energetica o di resa, diciamo sia sportiva che scolastica, l'abbiamo proprio per una lieve disidratazione che abbiamo e per la mancanza di liquido, che è appunto fondamentale per fare energia. Mm-hmm. Quindi mi sento più di richiamare in questi termini. Per quanto riguarda poi l'attività sportiva, perché questi ragazzi sono chiamati su più fronti, lo studio, i compiti, l'attività fisica, ancora una volta diciamo è importante bere sia prima che dopo, magari iniziare a utilizzare a quest'età qualche integratore anche di sali minerali con un po' di creatina, ormai si trovano già preparati, che aiuta non solo a dare le giuste, diciamo, elettroliti per le cellule, ma anche un po' di energia. E quella la regola di non mangiare cibi pesanti prima dell'attività fisica. esempio, quindi ancora una volta frutta, quindi per esempio, yogurt, esatto, che cosa escluderebbe? Il gelato, la frutta, diciamo, restano ideali per avere l'energia e per un'ora prima dell'attività fisica fornire i giusti, diciamo, mattoncini, la giusta energia per affrontare l'attività fisica, lo studio. Quindi diciamo non a panino con il prosciutto. Ecco, sarebbe meglio quello magari mangiarlo alla fine dell'attività fisica, non prima. Ah, ecco, allora ci dia anche qualche indicazione su questo. Magari si fa attività fisica a metà pomeriggio, poi si ritorna a casa e ci si rimette di nuovo sui libri. Quindi anche lì, insomma, il momento del passaggio fino all'ora della cena, come va gestito se arriva quel buco allo stomaco e... per non rovinarla poi. Cercando anche lì di prendere cibi che abbiano un'utilità per il nostro cervello, quindi ricordiamo che il cervello funziona con gli zuccheri, quindi diciamo sempre giusto nell'arco del pomeriggio mangiare o frutta o anche un gelato, diciamo la frutta, o comunque un po' di pane con un po' di marmellata, perché questo fornisce energia pronta, rapida e che può essere utilizzata dal cervello, mentre alla fine della giornata per ricostituire i muscoli che si sono persi o le energie che si sono dissipate non è più importante fornire energia pronta ma energia più lenta, quindi o strutturale come le proteine, quindi magari la sera pesce, carne magra o i legumi, quindi le proteine di origine vegetali, che danno una mano a ricostituire le perdite che abbiamo subito durante il giorno facendo attività. Aspettiamo ancora qualche messaggio al 349-238-6666, raccontateci la colazione dei vostri figli prima di andare a scuola, che cosa gradiscono, che cosa cercate di far mangiare loro e invece loro non ne vogliono proprio sapere, magari come gestite anche le merende, lo spuntino di metà mattina, quello di metà pomeriggio, quello che è propedeutico all'attività sportiva, cosa mangiano dopo aver terminato l'attività sportiva. Raccontatecelo e metteremo a confronto le vostre testimonianze con quelle di tutti gli altri ascoltatori. Sentiremo anche qualche suggerimento pratico del dottor Gualersi. Dottor Gualersi, mi ha incuriosito una notizia che abbiamo trovato ieri con Marco Lombardo mentre stavamo preparando la trasmissione. C'è questo presidente dell'Ordine dei Medici di Novara, che peraltro è un dietologo, che ha lanciato l'allarme a poche settimane dall'inizio della scuola sul fatto che anche quest'anno appunto queste lezioni in questa provincia seguiranno la settimana corta deciso dalla provincia di Novara appunto lo scorso anno. In questo caso una scelta fatta per ragioni puramente economiche, per tagliare i costi di riscaldamento e trasporto degli studenti. Secondo questo medico la settimana corta incide moltissimo sul tipo di alimentazione degli studenti, soprattutto alle scuole medie superiori, lì dove non esistono mense, quindi i ragazzi devono portarsi da casa un panino o comunque alimenti che sono considerati poco sani per poi arrivare a casa a metà pomeriggio e tragucitare tutto quello che trovano. Che ne pensa? Sì, questo è veramente un problema che però come tutti i problemi possono diventare delle opportunità, no? E io ricordo che andavo in una scuola dove non c'era la mensa e la maestra tanto tempo fa aveva inventato il fatto che tutti insieme cucinassimo qualcosa durante l'ora di pranzo, di molto semplice, con gli strumenti che potevamo portare da casa, e questo è un momento in cui concentrarci anche su quello che facevamo. Io credo che da queste, diciamo, esigenze anche di risparmio che ci sono potrebbero insorgere, diciamo, delle iniziative, anche perché ricordiamo che la scuola dovrebbe educare i ragazzi soprattutto a mangiare bene e quindi a vivere anche bene, non solamente a come e a studiare, no? E quindi io ne approfitterei proprio per creare innanzitutto un accordo anche con i genitori, con le famiglie, non è fondamentale portare a scuola qualcosa di, diciamo, cattivo, qualcosa, diciamo, di alimenti, quelli che vengono chiamati junk food, cioè il cibo spazzatura, ma portare cibi semplici, magari provare a cucinarli anche insieme, no? Approfittare magari di questo momento per parlare dell'alimentazione coinvolgendo, come ho detto prima, io stesso lo faccio in diversi posti, in diverse scuole, medici volenterosi della zona che aiutino a capire, e d'altronde sappiamo che è più facile far mangiare cibi sani, magari non sempre considerati buoni dai ragazzi, quando lo si fa tutti insieme, quindi ecco. Anche cogliere questa possibilità per dire ok, oggi proviamo a mangiare verdure per vedere un po' come si possono cucinare, come si può fare, o come la vostra mamma le cucina a casa, e tutti possono provare, non so, a sentire le varie cose, creando un piccolo gioco alla Masterchef, ecco, quindi oggi ottimo. Che abbiamo anche questi esempi potremmo approfittare di questo aspetto. Ci piace questa campagna un po' di sensibilizzazione, dottor Gualersi. Senta, allora Paolo da Genova ci scrive: la mia la mattina zuppa di focaccia nel latte con cacao e un frutto. Io Paolo vorrei sapere se lei ha 16 anni o se è papà di un adolescente, perché la domanda che abbiamo fatto è l'alimentazione del primo mattino per i ragazzi che vanno a scuola, come lo gestite questo momento nella vostra abitazione. Senta, dottor Gualersi, a quale età si può cominciare a prendere il caffè? Dunque, diciamo che il caffè è molto variabile, nel senso che già dai 16 anni... Perché io mi ricordo che lo prendo da un bel po'. Non ho un ricordo di quando ho iniziato, ma lo prendo da un bel po' di anni e mi piace. Diciamo che la popolazione appunto si divide in due. Quelli che, diciamo, assumendo caffeina aumentano molto il proprio tono simpatico adrenergico, quindi quelli che hanno tachicardia, insonnia, agitazione, ecco, quelli non dovrebbero prenderlo né a 15, né a 20, né a 25 anni, prenderlo il meno possibile, perché prevale l'effetto, diciamo, simpatico, l'effetto di aumento del tono nervoso su quello antiossidante che la caffeina ha, che il caffè ha. Mentre chi bevendo il caffè non ha questi effetti, quindi non sente effetti dannosi né sullo stomaco né sul cuore né dal punto di vista dell'agitazione, diciamo che dai 15 anni in avanti può iniziare a bere il proprio caffè. E chi non vuol sapere assolutamente parlare del latte la mattina è un problema? Oppure almeno per una certa fase bisognerebbe spingere? Lei so io come... sono un fautore proprio del non consumare eccessivamente latte, direi che bere un liquido bianco in cui immergere i cereali è possibile anche senza bere il latte, c'è il latte di riso, il latte di mandorlo, il latte di avena, al latte di soia, che tra l'altro contengono molti meno grassi saturi, meno colesterolo, quindi fanno bene, contengono più energia, più proteine, più sali minerali, più vitamine, che quindi sono utili per tutti. Non ci rimane che augurare buon inizio scuola a tutti e buona colazione a tutti, naturalmente soprattutto fatela con tutta la famiglia. Dottor Gualersi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. E buona giornata. Grazie molte, noi abbiamo terminato Cuore Denari di oggi, allora io stasera ritorno anche a Focus Economia e domani a Cuore Denari. Grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza tecnica, grazie a Marco Lombardo per l'aiuto in redazione. A domani, buona giornata. Cuore e Denari.